Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Raccontiamo oggi di una vicenda a lieto fine, fortunatamente ce ne sono di quelle fra le tante che segue l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ne avevamo parlato già un po' di tempo fa, adesso c'è una soluzione positiva. Bentrovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. La vicenda ci porta a Mestre, nella zona a traffico limitato. Una persona con disabilità ha avuto una serie infinita di multe in via San Pio X perché lì c'erano state delle rilevazioni. Poi lui ha presentato ricorso anche tramite voi e alla fine la soluzione c'è stata. Ricordiamo cos'era successo, perché lui aveva preso queste multe pur avendo il contrassegno. Sì, una vicenda metro che si è trascinata nel 2013 e che finalmente, come annunciato te, ha avuto un felice epilogo. Sostanzialmente si tratta di una persona che è sempre stata in regola con il permesso di transito del CTL, che diciamo è una zona di traffico limitato a cui solo chi è autorizzato può accedere con la vettura. Il quale il signore cosa ha fatto? Alla scadenza del suo permesso è andato a rinnovare al comando dei vigili del proprio comune il pass e non sapendo che poi doveva con il permesso validato dover andare sul comune di Mestre al quale doveva transitare, e perché comunque le informazioni che gli avevano dato erano state tali per garantirgli che tutto quello che aveva fatto poteva essere sufficiente per non fare null'altro, ricordando che il signore è anche disabile, e che alla fine si è rivolto all'Adico perché si è visto notificare 18 multe da circa 96 euro l'una per un transito che in realtà è stato rilevato ad ogni passaggio. Lui ovviamente ci andava perché aveva delle necessità professionali o personali, quello che è mancato appunto è questa comunicazione anche al comune dove poi lui sarebbe transitato. Il giudice però ha accolto il vostro ricorso, con quale motivazione? Sì, allora innanzitutto è stato incredibile come oggi si parla di burocrazia, di semplificazioni e ci troviamo una persona con un'invalidità permanente a dover andare da un ufficio all'altro dei comuni, di vari comuni, per poter validare un permesso che tra l'altro era già in possesso ma di cui era semplicemente scaduto. Poi d'altro canto questa persona dovendosi trovare nella condizione di aver ricevuto 18 multe e anche i termini per i ricorsi cominciavano anche fasi critici perché cominciava a ricevere uno al giorno, a un certo punto si è rivolto all'Adico con tutte le multe e con i verbali anche di quelle che avrebbero dovuto arrivare nei giorni successivi e sostanzialmente abbiamo fatto un ricorso e contenti anche perché è un epilogo che finalmente si è concluso pochi giorni fa, dove praticamente il prefetto da una parte e dall'altra alla fine ha dato ragione alle persone, all'automobilista, perché sostanzialmente tutta la buona fede della persona a dimostrare come lui ha cercato di fare di tutto per mettersi in regola, ma la cattiva informazione ricevuta da parte di qualche ufficio l'ha certamente indotto, non per colpa sua, a dover trovarsi in questa incresciosa situazione. Quindi mancava questa comunicazione tra una polizia municipale e l'altra, di due comuni diversi praticamente, e allora la prossima volta è già informato, quindi sa che deve fare doppia comunicazione, oppure si può sperare che la cosa venga risolta tra uffici, cioè uno fa domanda nel suo comune dove risiede, ma poi viene la cosa comunicata all'altro comune. Quando accadono queste cose scopriamo sempre come i comuni sono tanto bravi a notificarti le multe a prescindere da dove ti trovi e il comune in cui l'hai violata, rispetto a quanto in realtà non lo sono quando devono venirti incontro ad aiutarti a semplificarti la vita. Certo, ricordiamo che questo permesso si rinnova ogni 4 anni ed è anche incredibile come non ci sia nessuno che ti possa ricordare quando è prossimo alla scadenza, ma in questo caso addirittura la persona si era comunità anzitempo per rinnovarlo, ma certamente c'è da augurarci che la prossima volta quando si troverà in una situazione del genere, come tante altre persone, questi rinnovi possono essere un po' più fluidi nella gestione della pratica e non pensare che tutte le persone debbano perdere un sacco di giorni, di tempo, di disagio per potersi vedere rinnovare un permesso di cui sostanzialmente non ha diritto perché magari ci abita o perché ci lavora. Un'altra questione, poi anche voi l'avete segnalata, è a proposito delle ZTL nelle varie città, quindi più o meno grandi zone a traffico limitato, il fatto che in caso ad esempio di lavori in corso, deviazioni, non si capisce bene se queste ZTL continuino a essere vigenti oppure no, anche questo può destare problemi. Ah beh, ormai siamo abituati a vedere come non c'è un'ordinanza o un dispositivo emanato da un assessorato della viabilità possa considerarsi una decisione definitiva, perché poi a seconda di quando gli comodano loro, non solo per modifiche derivate da cantieri, ma anche per periodi in cui ci sono i saldi o nei periodi natalizi o nei periodi in cui magari ci sono certe modifiche aperte, è sempre una rivisitazione di quelle che sono un po' le ordinanze. Certo, questo crea sempre una grandissima difficoltà di interpretazione anche da parte degli automobilisti ad accedere sempre più, con sempre più difficoltà alle città, perché oggi poter pensare di avvicinarsi con l'auto ai tempi storici delle città è diventata quasi un'impresa. Certamente sono tutti interventi che non hanno nessun significato dal punto di vista della prevenzione, ma che cercano sempre a far cassa, proprio secondo il nostro avviso, creando confusione rispetto a invece a quello che dovrebbe essere un'altra comprensione della viabilità, insomma in questi giorni le persone dovrebbero ormai abituarsi a dover percorrere. Il tema della vita in auto e della vita dell'automobilista è sempre nella nostra scaletta, quindi lo ritroveremo credo abbastanza presto. Tra un paio di giorni invece ci avviciniamo idealmente alla Pasqua, parlando di prezzi di prodotti pasquali. Grazie intanto al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.